Il mio mestiere è quello di raccontare storie. Io devo raccontarle, non posso non raccontarle. Io racconto storie di altri ad altri, racconto storie mie, a me stesso e ad altri. Le racconto su un palco di legno insieme ad altri esseri umani, tra oggetti, scene, luci. Se non avessi un palco di legno, racconterei per strada, in una piazza, in un vicolo, da una finestra, da un balcone. Se non ci fossero altri esseri umani insieme a me, le racconterei con te pezzi di legno, pezzi di ferro, pezzi di stoffa, pezzi di carta. Se non avessi niente, racconterei con la mia voce. Se non avessi la mia voce, racconterei con le mani, con le dita dei piedi. Se non avessi né mani né dita dei piedi, racconterei con tutto il resto del corpo. Io racconterei muto, racconterei immobile, insomma, io in qualsiasi modo racconterei. Ma per me l'importante non è raccontare cose ad altri che ascoltano. Il racconto in sé non conta quasi niente. Il racconto in sé è un oggetto. Il racconto è un passaggio. Il racconto è un pretesto per raccontare ad altri cose che ti stanno dentro. Ed è per questo che stasera, signori miei, vi racconteremo di Genova, di come essa sia diventata, per forza di cose si intende, città simbolo della tragedia moderna, parimenti a tante altre paragonabili alle più illustri. Parlo di Tebe, parlo di Troia, città simbolo della tragedia moderna che è stata, che è e che sarà. Ma nonostante essa la tragedia, si intende, non la si possa ancora rappresentare, poi perché trattasi ancora di cronaca, poi perché i processi sono ancora in corso, poi perché i personaggi sono ancora persone, quindi non si possono interpretare, si possono ancora raccontare, ma essa, la tragedia, già corre e si racconta e va di voce in voce. Ancora riecheggiano i suoni, le suggestioni. Il passato prossimo è il tempo indicativo con l'aggiunta dell'imperfetto per le ovvie circostanze. Maestra, la tragedia, si intende, già corre, si racconta e va di voce in voce. È solo così, forse. Un giorno, forse, un novello Omero, Eschilo, Sofocle, Euripide, chi per loro potrà forse scrivere di Genova e dei tragici giorni del 2001. Quando tutto sarà ben definito, definite le tesi, e altrettanto le intenzioni. Ma a noi ci pare doveroso e ci piace potervela raccontare dal principio. La tragedia non si può rappresentare, mentre il potere sì, anche quello democratico. Per questo è stato inventato il G8, la festa dei grandi che, autoproclamandosi grandi, quasi come se fossero dei sovrani reggenti, hanno deciso di riunirsi alla corte di uno di loro per dare dimostrazione della propria potenza. Ognuno di loro, ad ognuno di loro, tutti insieme al resto del mondo, erano presenti: Fra United States of America, George Bush, Fra United Kingdom, Tony Blair, Par la France, Jacques Chirac, Par le Canada, Jean Chrétien, From Russia, Vladimir Putin, House, Deutsche Langer, Schneider, Atto Japan, Koshimiro Koizumi. E dall'Italia, maestro di cerimonia, a quel tempo primo ministro del Consiglio, un certo Silvio Berlusconi. Loro non avevano niente di importante da decidere. Le decisioni delle più importanti erano così scomode che era meglio relegarle ad organi apposti, ma soprattutto lontano da loro e dai loro rispettivi riflettori. Il loro compito era quello di sorridere. Sorridere più che potevano e stringere mani, tutte quelle che potevano e poi stringere mani e sorridere insieme. Foto, pranzi, riunioni, ancora foto, pranzi, cene, ancora riunioni. Mostrare che ciò che avveniva sopra le nostre teste e al di là del nostro controllo veniva fatto per il nostro bene, fatto per bene con tutto il bene, ma non sono state prese decisioni, sono stati espressi orientamenti, perché comunque a casa propria ognuno fa come gli pare, e perché comunque tutto ciò di cui si è discusso è stato precedentemente concordato dalle diplomazie di turno. Ma è toccato al nostro Silvio fare il onore di casa. Silvio ha puntato tutto su due punti fondamentali. Uno, fare bella figura. Due, fare bella figura alzando il livello dello scontro per mostrare i suoi piccoli ma coriaci muscoli e ai sette amici e al resto dell'umanità. Ha diviso Genova in tre zone. Quella verde, quella gialla, quella rossa. La zona centrale era la zona rossa, lì non poteva entrare nessuno senza il pass, che però veniva rilasciato solamente all'interno della zona rossa, e chi ci abitava era meglio che se ne andasse, perché difficilmente sarebbe potuto uscire di casa o usufruire delle proprie strade come era suo diritto. I negozi però dovevano restare aperti, per non fare sembrare Genova una città fantasma, ma tanto non avrebbero venduto nulla, perché in giro per le strade c'erano solamente diplomatici, giornalisti e poliziotti in servizio. La zona rossa è stata chiusa con dei cementi, con dei cordoni di cemento alti 5 metri, per avere a disposizione disposizione dei posti letto dal carcere di Varazze sono stati trasferiti circa 700 detenuti. Lo stesso è avvenuto con i degenti dell'ospedale, mentre è partito un ordine d'acquisto per circa 100 sacchi neri di plastica per non farsi trovare impreparati di fronte ad altrettanti cadaveri. Sono arrivati 20.000 poliziotti, 20.000 carabinieri, i reparti della K4, la batteria antimissile, uomini rana, uomini anfibi, uomini serpenti, uomini volanti, ed è stato chiuso lo spazio aereo. Ma è il meglio di Silvio, è riconoscibile all'interno della zona rossa. Quelle facciate, che non erano di suo gradimento, sono state ricoperte con delle rappresentazioni secondo uno stile neoclassico ribattezzato poi dagli esperti di partito in riferimento alla nomea degli di un imperatore su quegli alberi che per ovvi motivi stagionali non presentavano frutti, ha fatto attaccare con del nylon trasparente dei limoni maturi, sostituendosi così a madre natura. La zona rossa è stata schermata ai telefoni cellulari, perché secondo fonti dell'intelligence era su quelle frequenze che viaggiavano i comandi a distanza delle bombe, ed è per questo che è stato chiesto ai cittadini di evitare le loro private conversazioni, di effettuarle o prima o dopo il vertice. Veniamo ai nostri ospiti, uomini molto dolci, per questo bisognosi di premorse e attenzioni. E il previdente Silvio non è stato certo da meno per soddisfare determinate necessità. Ha fatto cambiare 1200 tende, ha fatto ritappezzare circa 500 divani di bianco e carta zucchero, 6000 cuscini salmone, sedie di seta dello stesso colore. Gli ospiti sono stati accolti su delle sontuose navi, c'erano chaise longue, con bagno tutto incorporato, vaporizzazione agli agrumi, alla vaniglia, ad altre 13 essenze mediterranee. Ad ogni ospite è stata data la propria necessità. Un materasso rigido per Vladimir, una suite con idromassaggio per Tony, una palestra privata per Giorgio, una suite con idromassaggio e palestra per il giapponese che ha portato con sé il personal trainer, perché a quanto pare giapponesi e americani sono molto simili. Ad ogni ospite è stato regalato un set da scrittorio del valore di 5.000 euro, per il quale lo stesso Silvio si è preparato personalmente di elencarne le potenzialità, così come personalmente ha voluto redarne il menù, conoscendo a menadito i gusti dei suoi ospiti. Corsetti alla libera, pranzino sfilettato al vapore, semifreddo alla pesca, il tutto innaffiato con lo spumante Giulio Ferrari dell'85, Don Villa San Nicolò del 99, un demisec Ferrari, come vino da dessert un bracchetto d'acqua. Il menù di sabato prevedeva invece per il pranzo gnocchetti con salsa al basilico, sì, perché vista la riluttanza per i giapponesi dell'aglio contenuto nel questo alla genovese, Silvio, che è furbo, ha consigliato ai propri chef di usare questa denominazione piuttosto che quella del pesto d'oc, cima di vitello farcita, bouquet di insalata, un semifreddo alla ricocca, la carta dei vini per noi è la stessa del giorno precedente. Per la cena di sabato invece sono previsti una mousse di zucchine con calamari alla griglia, ravioli farciti con gamberi e pesce bianco, scaloppini di rana pescatrice al piegato, una cialda al biscotto con frutti di bosco, uno sciroppo di rose, il tutto innaffiato con un Giulio Ferrari del 78, un Lunelli Villa Gentilotti, un Lunelli Villa Margot del 96 e per concludere con un Ferrari dei Misecchi, uno Sciacchetrà, un vino bianco dolce liquido da dessert. Bene, tutta questa popò di messa in scena è costata ai contribuenti circa 350 miliardi, ma del vecchio conio. Mentre 65 chef e 34 sommelier preparavano il tutto, c'erano circa 400.000 persone che preparavano panini e striscioni e si preparavano per arrivare. E mentre tutto in città era pronto per il loro arrivo, è stata fatta partire la strategia della tensione tanto di moda in Italia. Pacchi bomba! Lettere bomba! Allarmi su sacchi di sangue infetto! Bigli all'acido! Ma tutto questo le 400.000 persone non lo sanno e non lo devono sapere e si preparano per arrivare ignari dello spettacolo di cui faranno involontariamente parte. Tutto adesso è pronto. Okay. international meeting for tomorrow's action. All the international groups present here are invited, 11:30 at the entrance. Questi gas lacrimogeni che useranno non andranno solo per via inalatoria o fanno lacrimare, ma danno anche irritazione. Tutto ciò funziona se non siamo singoli, ma se siamo una collettività, una moltitudine, un solo corpo. Perché il mondo è pieno di zone rosse, quella di Genova non è né la prima, purtroppo né l'ultima delle zone rosse che si creano in questo mondo. Cualquiera persona, que sea la gente que está aquí, es evidente, gente del campo, gente pescadores, gente universitaria, gente de las ciudades, gente del campo, miras la televisión y ves un político y dice, es un payaso. Eso ya es algo importante. Nadie creía en los políticos, porque los políticos ya no dicen nada. Pero lo importante es decir, es que hay una unión general para decir no a un futuro que no queremos. Luego habrá tiempo de decidir, de comentar, de hablar entre todos de cuál futuro quiere cada uno. Ahora Genova es una ocasión única, decir todos juntos el futuro que ya está aquí, que nos están imponiendo, no queremos. Viene messa in crisi da un vasto e crescente movimento, ma questo non basta. Non basta essere in tanti nei cortei. Noi ci siamo posti come obiettivo quello di avere dalla nostra parte la maggioranza della popolazione mondiale. Il movimento è composito e questo costituisce la ricchezza un problema. È una ricchezza perché la diversità è condizione fondamentale per allargare la partecipazione. È un problema perché è sempre difficile tenere insieme punti diversi di vista da loro. Ma il movimento è mondiale perché mondiale è il problema e perché dovunque i potenti della terra si riuniranno ci sarà sempre chi metterà in discussione i loro obiettivi. Il nostro avversario agisce su scala mondiale, a luogo di decisione internazionale in ideologia omogenea, ed è per questo che sono importanti tutti quei momenti in cui si comincia a costruire un confronto comune, un sentire tra i vari movimenti. La nostra lotta non può essere che radicale, perché radicalmente oppressiva è la pratica del G8. Sì, ma c'è del tutto chiaro che nessuno vuole fare la guerra alle città dove si svolgono convegni come quelli del G8. Anzi, noi ci opponiamo anche al fatto che i potenti della terra occupano di volta in volta questa o quell'altra città. La nostra lotta non può essere che radicale, perché radicalmente oppressiva è la pratica del G8, sì, ma la nostra lotta non è un pranzo di gala, ma è nemmeno una guerra, ma per il convegno del G8 a Genova c'è innanzitutto un problema di democrazia, perché non sappiamo nemmeno se le nostre iniziative verranno autorizzate. In compenso Genova, e forse non solo, verrà militarizzata. Questa minaccia di dispiegamento militare potrà forse spaventare qualcuno, ma in realtà delinea il carattere autoritario del potere con il quale ci confrontiamo, teso a difendere i propri privilegi con la forza. Se sapremo mettere in evidenza questo aspetto, la loro forza diventerà una debolezza, perché la loro vulnerabilità l'hanno già dimostrata in altre occasioni, ognuno di noi ha punti di partenza diversi. Ognuno di noi si interroga sugli sbocchi, ognuno di noi si interroga su quali possono essere i rapporti con la politica. Ognuno di noi si interroga su quale, su come possa essere un nuovo ordine mondiale, secondo i principi di eguaglianza, solidarietà, democrazia. Ed è per questo che metteremo in atto a Genova una serie multiforme dell'arrogante inviolabilità di questo potere mondiale, illegittimo e ingiusto, secondo l'articolazione dei bisogni materiali e immateriali di ognuno. Siamo tutti d'accordo che dobbiamo innanzitutto fermarli, ma dobbiamo discutere di quello che vogliamo. Ed è per questo che abbiamo discusso su come arrivare a Genova, su quali contenuti portare a Genova, su come far sì che Genova sia l'ennesima occasione per mostrare agli oppressi di tutto il mondo chi sono i reali responsabili. E lui mi confronta. Me lo guardo, lui mi guarda, io però non mi fido perché vedo che lui non mi fida. Si fida. Nessuno però ha parlato di un momento di aggregazione internazionale, di un concerto che c'è stato la sera prima, la sera del 19. Un concerto in cui tutti sono stati insieme, sereni, manifestanti e poliziotti, che ballavano e che lavoravano. Alla gioia, si sa, non fa notizia. A Genova hanno sofferto il daltonismo. C'erano degli sbirri lì a controllarci, a decidere se e come potevamo entrare a Genova. Figurarsi, a me è bastato aiutare i ragazzi che erano con me in treno. C'era uno di loro che credo fosse un prete che parlava con gli sbirri per tutti. Erano circa 50 gli sbirri, altrettanti noi, cioè loro. A me è bastato aiutarli a scendere striscioni, bandiere colorate, aiutarli a cantare i loro slogan per vedermi restituire un sorriso, come a dire: dai, sei dei nostri, bleh! Mentre restituivo sorrisi a sorrisi, eravamo passati, eravamo a Genova. Non appena in strada mi sono defilato con una scusa delle più banali: vado in bagno. Una volta in bagno ho messo la felpa, i pantaloni, il resto nello zaino, facendo attenzione che tutto fosse a portata di mano. Quando sono uscito dal bagno ho ricevuto un messaggio dove mi confermavano tutto. C'ero vicino, sentivo i tamburi radunarci, allora ho pensato bene di trovare un androne, l'ho trovato, dentro l'androne ho messo passamontagna, casco, occhialetti, guanti. Sono uscito dall'androne che era una furia. Tendevo l'orecchio ai tamburi e man mano che mi avvicinavo sentivo il rumore del corteo che avanzava. A un certo punto li ho visti. Sembravano uccelli neri, non gabbiani che a Genova ce ne tanti, uccelli neri che spuntavano dai posti più pensabili, fuori dai bar, fuori dalle grandissime androni, dai vicoli bui. Erano 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri ancora, correvano, saltavano, i loro cappucci sventolavano come fazzoletti al vento, avevano tutto il viso coperto come me, ci siamo armati! I sassi, pezzi di ferro, pezzi di legno trovati per strada. Abbiamo sradicato pali da un distributore, sottratto benzina dalle moto parcheggiate, abbiamo tirato via pietre dal selciato, abbiamo distrutto tre bancomat, un McDonald's e altre vetrine, e nessuno di noi si è avvicinato gridando che la sbirraglia si trovava in piazza, assiepata, e che era lì che saremmo dovuti andare. L'adrenalina montava, il fragore ci precedeva, la gente dai balconi ci urlava, ma niente poteva fermarci. Una volta in piazza c'erano gli sbirri schierati, 200 metri davanti a noi. Alle nostre spalle passava il corteo, era la posizione ideale. Abbiamo incendiato 4 castelletti, 3 automobili, distrutto altre vetrine. Gli sbirri ci lasciavano fare mentre la gente alle nostre spalle ci urlava di tutto, ma niente poteva fermarci. Io stavo lanciando un sasso quando mi sono accorto che stava per partire una carica della polizia. Allora ho fatto un fischio. Non si è sentito. Ne ho fatto un altro. Niente. Allora ho preso un bel respiro. Parola d'ordine. che voleva dire ritirata, carica in arrivo, dispersione nella folla, subito mi sono mischiato al corteo, c'era chi mi sgambettava, chi mi spintonava, qualcuno ha pure provato a fermarmi, ma io non me ne avvedevo e cambiavo direzione, ero ancora in piazza per rendermi conto che la carica era stata violentissima, ma che tutti quanti noi eravamo scappati. Tutti abbiamo risposto alla mia parola d'ordine con l'immediata fuga, tutti tranne due. Due rimasti come degli stronzi, ignorando la parola d'ordine, adesso in evidente difficoltà. Uno di loro mi guarda, si era accorto di essere rimasto da solo. Mi guarda e vuole che io gli spieghi qualcosa, io non capisco. La sapevamo tutti, conoscevamo tutti la parola d'ordine. Io ho pensato potesse essere uno straniero, ma mi urlava la sua disperazione in italiano. Così ho smesso di pensare, ho smesso di correre, sono tornato indietro, l'ho preso di peso, l'ho portato via, l'ho tolto dalla piazza, fuori dalla mischia in un vicolo buio. E mentre in quel vicolo io ancora pensavo al rischio appena posto nel tornare indietro, lui immediatamente si è tolto il passamontagna. E guardandomi in faccia mi fa: beh, ma tu come ti chiami? Da dove vieni? Meglio dividersi adesso. Ci vediamo a casa fra un'ora. Io sono tornato nel mio androne, ho messo via il casco, il passamontagna, gli occhialetti, i guanti. Adesso potevo confondermi tra gli altri. Adesso potevo stare per strada tra sguardi persi che vagavano per i carrucci, sguardi persi come di chi scappava da qualcosa senza sapere bene cosa, sguardi persi come di chi cercava qualcosa senza sapere bene cosa. Io una meta ce l'avevo e l'ho raggiunta molto prima del previsto. Ho salito le scale come se volessi raggiungere il mio migliore amico, come se stessi scappando dal mio peggior nemico. La porta era aperta e regnava un silenzio irreale, non era ancora arrivato nessuno. Così ho deciso di farmi una doccia. Mentre l'acqua scendeva, la stanchezza saliva e i muscoli si rilassavano. Mentre l'acqua scendeva, i pensieri salivano, le domande ritornavano. Pensavo a quel ragazzo, nota insolita di un'azione perfetta, per un attimo l'ho sentito vicinissimo a me, un attimo dopo l'ho sentito diversissimo da me. Perché mi ha chiesto come mi chiamo, i nomi non li sai, non si domandano i nomi. Uscito dal bagno mi sono accorto che erano arrivati tutti. Chi era seduto sul letto, chi sul divano, chi guardava la TV per sapere se si parlava di noi, chi faceva un caffè, chi un tè, chi una canna. Era bello conoscere il viso di tutti, realizzare che sotto quei passamontagna c'erano occhi brillanti e bocche cucine. A me, come agli altri, non interessava sapere cosa avremmo fatto, dove saremmo andati adesso. Interessava solo sapere che tutto era andato come previsto, che tutti eravamo lì, al sicuro. Non tutti, però. Il ragazzo di prima non si è visto. Io mi sono tolto la barba lungo di un mese ed ecco riapparire il mio viso. Ho deciso di uscire, io ho deciso di godermi appieno quella gioiosa aria estiva, ho deciso di godermi appieno quella gioiosa aria di rivolta e subito mi sono diretto verso il corteo ed ero felice, ero contento, ridevo sincero nel vedere tanti colori tentare di fermare quegli otto stronzi. Uno degli slogan era: voi G8, noi 300.000, voi G8, noi 400.000, voi G8, noi 500.000. Era la giornata delle piazze tematiche, tre diversi assembramenti in tre diversi spazi della città, tantissimi colori. Colori della pelle, dei capelli, colori delle bandiere, di striscioni, colori di vestiti colorati e colori di vestiti a tinte unite, mani bianche, tesi di alcuni, nasi rossi in vista di altri, reazioni decise di chi questo mondo davvero lo vorrebbe diverso, ognuno con diverse modalità di intervento, con diverse modalità di contestazione, di azione più o meno violente, ma uguali gli intenti. Fino a quando quelle gioiose manifestazioni di dissenso hanno preso una piega che almeno per me era del tutto inaspettata. Strani uomini di nero vestiti hanno preso il sopravvento nelle piazze tematiche più disparate, soprattutto quelle senza un servizio d'ordine. Sembrava volessero essere dei black bloc, ma c'erano troppe anomalie in fila. Ho visto in piazza Paolo da Novi alcuni di questi presunti black bloc interferire con il corteo senza nemmeno essere disturbati quando gli sbirri si trovavano a 40 metri. Ho visto di fronte il carcere di Marassi un presidio dei carabinieri permettere un fitto lancio di bottiglie incendiarie, seppure in evidente superiorità. Ho visto una ragazza di nero vestita essere apostrofata da uno di questi presunti black bloc con una frase del tipo: uè, ma tu sei con noi o contro di noi? Ho visto un altro di questi presunti black bloc riuscire a fermare con la sola imposizione delle mani una carica della polizia. Ne ho visto un altro ancora correre petto in fuori verso la carica piuttosto che scappare. L'ho visto essere preso di peso e portato via, graziato così alla massiccia mole di manganellate riservata a tutti gli altri, e mentre lo portano via lo riconosco. Ho riconosciuto la felpa, gli stivaletti, i pantaloni, era il ragazzo di prima. Ed il ragazzo che fino a qualche ora prima aveva innescato mai dubbi, sin allora è risolto. Io lo guardo negli occhi, lui guarda nei miei, io riconosco lui non riconosce me. E senza che dicesse nulla di nuovo, capito? Quello era uno sbirro. Infiltrato a far casino sregolato. Perché è troppo facile infiltrarsi, innescare e scappare. Troppo facile infiltrarsi, passare inosservato, innescare e scappare. Troppo facile! Ho visto occhi di madri piangere figli non propri. Ho visto mani di padri coprire occhi di figli propri, di figli non propri. Ho visto gambe di ragazze correre, fuggire senza saperne il motivo. Ho visto cuori di ragazzi arrivare sino in gola per la paura. Ho visto tanti occhi lucidi lacrimare senza volerlo. Ho visto ragazzi e ragazze, madri, figli, padri, figli, rincorsi, fermati, malmenati. Ho visto una reazione decisa, una controreazione eccessiva. Ho visto il corteo in via delle Madri che, come concordato, sarebbe dovuto arrivare ai limiti della zona rossa, essere caricato senza nessun motivo scatenante. Ho visto utilizzare degli idranti particolari con dell'acqua orticante. Ho visto sparare centinaia di lacrimogeni, anche, soprattutto e volentieri, ad altezza uomo. Ho visto centinaia di ragazzi correre, fuggire, spinti verso un'improbabile via di fuga laddove pari a zero erano le vie di fuga, ed è per questo che ho visto partire necessarie sassaiole. Creare determinanti barricate, utilizzare infuocate macchine, cassonetti al fine di arrestare l'inesorabile avanzata di quanti preposti ad assicurare l'ordine piuttosto determinavano il contrario. Ho visto alcune di queste camionette della polizia sfondare le barricate come a voler dimostrare la propria superiorità. Ne ho visto una di queste in Piazza di Monda restare bloccata oltre la barricata in piena balia dei manifestanti. Ho visto l'autista fuggire mentre in tanti si avvicinavano come di fronte alla propria preda caduta in trappola. Ho visto sfondare i finestrini con dei tondini, lanciare sassi contro gli occupanti. Ho visto micidiali molotov per colpo perino. Ho visto un ragazzo minuto prendere un estintore laddove un altro massiccio da dentro l'auto impugnava un'improbabile pistola. Ho visto il primo minuto avanzare pieno di rabbia, pieno di paura. Ho visto l'altro massiccio spuntare pieno di incapacità, di terrore. 4 metri separavano i due. Oddio, cazzo, sono qui. Oddio! No! No, porca troia! Verde! Thank you. nella testa. Un lieve suono si chiama i riscossi. Lasciando il torpore del caldo letto, l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato e fisso riguardai per capire la cagione del mio risveglio. Vero è che in sola banda mi trovai, nella stanza dal sole illuminata. Dormito tanto avea dovuto, che la mente un po' mi dovea, come se io fossi nato in quel momento. Poi che alzato mi fui e ripensai un poco a dove stavo, e che un altro anno era passato. La mia mente viaggiava per i giorni che vissuti avea con tutti voi, agli errori fatti, alle prese decisioni, ai dispiaceri e gioie che ho passato in 16 anni, che è quanto ho vissuto. Aperta poi che ebbi la porta della mia stanza, mi ritrovai nella casa sparsi, già tutti svegli ed operosi. Dai muri della casa uscì un calore e le vostre parole potevi udire. Fermo in sola porta io restai, a respirare quell'aria in festa che sapeva di pace e di dolcezza. Auguri, Carlo. Giuro di essere fedele a Dio, alla vista del Re nostro Signore e dei suoi successori legittimi, di servirlo con onore e lealtà, di sacrificare anche i miei beni e la mia stessa vita per la difesa della sua real persona, per il sostegno della sua corona e della sua piena autorità sovrana, anche contro i suoi sudditi che tentassero di sovvertire l'ordine del governo, la disoccupazione. Vi giuro di non cedere mai le mie insegne e il posto che mi verrà dai miei superiori affidato, di ubbidire ai miei generali e anche ai miei comandanti del suo maestà nominati, di onorarli, difenderli, di seguire ogni loro ordine di tutto ciò che concerne il regio servizio e la disoccupazione della vita. Vi giuro di non avere carta e ciò o intelligenza diretta o indiretta a componenti straniere, di non ricevere dalle medesime doni, pensioni, distinzioni qualunque senza licenza di sua maestà. Giuro di non essere iscritto in nessuna setta o società o iscritto dal governo, di non farlo avvenire, di svelarne l'esistenza qualora ne fossi informato la disoccupazione, mentre tutte le bestiere mi stia, di giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservare la Costituzione e le leggi, di adempiere con disciplina ogni dovere del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni della disoccupazione, mentre tutte le bestiere di merda! Addosso, consapevole che voi dovete restare fermi. Io sono nato in un paesino di 3.000 anni, uno di quei paesini dove è bene che tutti la pensino allo stesso modo, con gli stessi orari, gli stessi appuntamenti, stesso panificio, stesso farmacista, stesso macellaio, stesso dottore, stesso prete, stessa puttana, stessa abnegazione al lavoro, alla chiesa, alla famiglia, tutte queste 3.000 le anime intente a lavorare per la propria famiglia e perché si possa dire di loro essere dei grandi lavoratori, ma è pace per un grande lavoratore. Uno di quelli che si alzava alle 3 del mattino perché fosse quella l'ora giusta per andare a pascolare il gregge, sì, pitti chi è? Che nel XX secolo, quello del petrolio, nel XXI secolo, quello del progresso, del debito, ci vuole qualcuno che mostri con le proprie difficoltà la ricchezza degli altri. Ci vuole qualcuno che si mostri con i piedi per terra, anzi, con i piedi nella terra. Polverosi i piedi, polverosi i pantaloni, polverosi tutto il resto. Perché mi rendo conto che pascolare il gregge è fuori da ogni contesto socioculturale. Sicuramente sarà fuori discussione la sua competitività sul mercato, il suo incidere sull'economia mondiale, ma è pur sempre un mestiere, anzi, se dobbiamo dirla tutta, è il mestiere più vecchio del mondo. Sin dai tempi di Abele, Abele di Caino e Abele, insieme al contadino Caino e all'assassino sempre Caino. E dopo 40 anni che fai il pastore ti accorgi che hai dedicato alle pecore tutta la tua vita, che conosci meglio loro dei tuoi stessi figli, che riconosci ogni pecore ed ogni flebile velato, mentre a stento ricordi il nome di 10 figli, che le conosci anche meglio della tua stessa moglie, visto che con delle pecore perché ha diviso tutta la vita e non conosci nessun altro. Perché il pastore è un tipo solitario, perché ha a che fare con le pecore ma anche con i lupi. Perché si fida di un cane più che di un uomo, perché ha pure degli orsi, ma un orso lo è anche lui, perché il pastore ha tanto a che fare con gli animali che quasi quasi diventa uno di loro. Ma questo non lo decide il pastore, è il paese che lo decide, e la società che lo impone, perché è comune che sia così. E perché poi una persona non ha nella forza, nel coraggio di cambiare, quanto di più radicato c'è una cultura. Questo mio padre l'ha sempre saputo, ma lui ha sempre fatto finta di non saperlo. Per lui pascolare il gregge era un mestiere come un altro. Un mestiere che come un altro ti permetteva di campare la famiglia. E se non era questo, era un altro ancora. Lui lo chiamava il senso del lavoro comune, dove il pastore ha la stessa dignità del dottore. Perché diceva: se il dottore ti prescrive maglia di lana e latte caldo, toccherà al pastore occuparsi della tua salute? Perché se è vero come è vero quanto è buono il formaggio con le pere, mangia dei lupo pecorino e poi morici, picchi, chiacchiere su chiacchiere. E i maccheroni si mangiano un po' sugo. E se si mangiano i dottori, l'avvocato, i professori, i deputati, se la resterà a mangiare pure i pastura, questo il senso del lavoro comune. Questo secondo mio padre. Ricordo che quando ho detto a mamma che avevo vinto il concorso della polizia, era così felice e mi ha abbracciato e baciato così forte che ho pensato potesse essere quello il mio suo giorno più bello della sua vita. Ricordo anche che quando le ho portato per la prima volta la tuta d'ordine pubblico, piena di sputi, era così triste e mi ha baciato e abbracciato così forte che ho pensato potesse essere quello il mio suo giorno più brutto della sua vita. C'è sempre o troppo fritto o troppo caldo, ma voi perché? Io non ci sono abituato, non ce la faccio, ho fatto domanda. Ma non è cosa, viste le modalità che delineano il suo trasferimento in suddetta sede, ci pare oltremodo improbabile che la sua richiesta venga accettata. Questo lavoro lo si deve amare, non è un rifugio per disoccupati. Questo lavoro lo si deve amare, non è un rifugio per disoccupati. Amare, amare, amare. Noi lo facciamo per lei, per garantirle un futuro migliore di questo. Avrà altre occasioni per la sua crescita professionale. Sì, ma io, comandante, come dire, io qui ci sono nato. Ho fatto sempre il lavoro in strada. E poi non l'ho chiesto io il trasferimento, ma non la si manda mica al fronte! Noi siamo una grande famiglia, non se ne dimentichi mai. Ed è perché siamo una grande famiglia che sono stato trasferito in una landa desolata, al nord del nord del nord, a regolarizzare denunce di sbarrimento, a godere del furtarello dello sbandato di turno, a emozionarmi di fronte al rilascio di un passaporto con la promessa e la premessa che se voglio tornare devo fare il bravo. Fare il bravo significa ubbidire, mantenersi ligio al dovere, qualunque esso sia. Fare il bravo significa nascondere me stesso e le mie perplessità in funzione di una ragione di Stato. Fare il bravo significa sorridere e annuire ogni volta ho nascosto il mio personale pensiero in funzione di quel pensiero politicamente in maggioranza nel mio ambiente. Fare il bravo significa rinnegare me stesso e gli insegnamenti di mio padre, perché d'altronde bisogna che la si pensi tutti allo stesso modo, perché d'altronde siamo una grande famiglia. Fare il bravo significa farsi rispettare e far rispettare sopra ogni cosa solo perché indossiamo una divisa per 1200 euro al giorno. Si lavora 6 giorni su 7, 6 ore al giorno su 4 turni, 7-13, 13-19, 19-01, 01-07, poi di nuovo 7-13, 13-19, 19-01, 01-07. La matematica è spesso un'opinione, quindi una regola. Un'ora di straordinario 6 euro. La domenica 10 euro, lo straordinario sarà in busta paga fra 5, 6, 7, 8, 9, 10 mesi. Nessuno ti costringe a mettere la divisa e non per questo devi sentirti diverso dagli altri, perché vivi gli stessi casini degli altri, i casini delle piazze e quelli delle proprie case. Quelli di non far sentire tuo figlio diverso dagli altri solo perché indossa le stesse 3 paia di scarpe alternate, quelle che tanto ha criticato tuo padre perché dedicava più tempo delle pecore piuttosto che a tua madre, e più tu ti ritrovi sempre di più a vestire i panni di sbirro piuttosto che quelli di padre e di marito. Scusa, è che io così non posso andare avanti. o dico la verità sui noti fatti, e sia quel che sia, o... erano i mesi che ci avvicinavano al G8. Bisognava garantire la sicurezza dei grandi, bisognava garantire la sicurezza della zona rossa. È un limite invalicabile, una zona che nessuno deve oltrepassare. Voi scusi, comandante, ma noi così facendo non rischiamo di tirarci addosso i violenti? Io non vedo questo pericolo. Ce l'hanno assicurato anche fonti dell'intelligence, quelli sono dei teppisti di professione e hanno giurato di voler oltrepassare la zona rossa. Voi dovete assicurare che questo non accada e punire chiunque pensi anche mezza volta di poterlo fare. Assicurare e punire, assicurare e punire, assicurare e punire. Voi siete qui per questo. A me sembrava esagerato tutto questo bordello per un normale servizio d'ordine. Ed era esagerato per molti dei miei colleghi, qualcuno come me con delle perplessità, qualcun altro con euforia, però ci sentivamo tutti quanti sicuri. Tutti quanti eravamo sicuri perché per settimane ci siamo preparati tutti insieme. Per esempio tutti insieme abbiamo provato per settimane il tonfa, quel nuovo manganello americano, quello che con la sua impugnatura a T ti permette di avere una maggiore estensione e una maggiore efficacia nel colpire. Così come abbiamo provato le nuove custodie, sempre americane, quelle un po' più grandi, che ti permettono di meglio estrarre le pistole. E le nuove maschere, quelle relative ai nuovi gas, che ti colpiscono gli occhi, ti bloccano la gola, tutta roba sperimentale. Poi sono arrivati i giorni del G8 e sono cominciate quelle cose che tra le righe del nostro ambiente vengono dette normale amministrazione, dichiarazioni minacciose, pacchi bomba, lettere bombe. Poi è arrivato il G8, ed era tutto molto diverso da come ce lo aspettavamo. C'era troppo poco tempo per pensare. Era molto più facile eseguire e colpire. Mi diverto solo se vedo morire uno sbirro. Chi non salta è uno sbirro. Chi non salta è uno sbirro. Mi diverto solo se vedo morire uno sbirro. Calci e pugni sulla schiena, tanto a noi non ci fai pena. Lo sbirro è il mestiere più infame che c'è. Quando indossa la divisa è un leone, nella vita sai che uomo è di merda. Servi, servi, servi dei servi, via via la polizia, poliziotto pezzo di merda. Ah, nella mia città c'è una malattia che non va più via, è la polizia. Assassini, assassini, assassini, assassini. Quel giorno sono tornato in quest'ora con il morale sotto i piedi. Forse quella fu la prima volta in vita mia che non ero così contento di essere un funzionario dello Stato. Forse io non mi ero mai sentito così solo, nessuno dei miei colleghi si era mai sentito così solo e non mi ero mai sentito così vicino ai miei colleghi. Nessuno dei miei colleghi si era mai sentito così vicino ai suoi colleghi, chiusi in uno stanzone a stringere denti e manganelli, furiosi come dei cani furiosi. Arrivavano al centralino chiamate confuse di genovesi confusi che diremavano denunce confuse con indicazioni confuse. Un urlo di nostro superiore, altrettanto confuso, è stato capace di sprigionare in noi un'adrenalina pazzesca e come una mandria impazzita ci siamo riversati dentro le camionette. Nelle camionette c'è noto dei confetti. Non ne voglio. Prendili! È un ordine! Alla lenta. Ma... con un retrogusto amarognolo. Una volta entrato in quella scuola, la prima cosa che pesto sono delle trecce lunghissime, come degli spazzoloni legati insieme di una ragazza minuta, spalle ossute, spigolose, 15, 16 anni massimo. Lei dormiva quando l'ho dato il primo calcio, nemmeno si è svegliata. Allora gli hanno dato un altro per poterla svegliare, un altro per farle del male, un altro ancora per farle ancora più del male, fino a quando ho visto un altro ragazzo correre per le scale. Era tutto vestito di nero, sicuramente si trattava di un black bloc. Io l'ho inseguito, lui si è girato e mi ha colpito, e mi sono incazzato perché lui non può colpirmi, si è messo a urlare. Io ho preso la testa e gli ho sbattuto nel gradino, fino a quando non l'ha smessa, fino a quando non l'ha smessa, fino a quando non l'ha smessa, fino a quando non ho visto l'altro ragazzino. 18 anni massimo, timido, riccioluto, teneva la testa fra le gambe e così è bastato un mio solo pugno per vedere tutto il suo sangue schizzare sulla mia divisa. Alla sua ragazza di fianco l'ho colpita per bene, un pugno dritto in faccia e un calcio sui fianchi che fa male e toglie il respiro a quell'altra. Gli ho spaccato tutti i denti e mi è finita pure su tutti i giornali quella puttana. Ora gli ho spruzzato il gomito, ho tolto pure la testa e mi ha dato il ginocchio, ho preso un morsi che cazzo e ho fatto la puttana. Il giorno dopo c'è stata una conferenza stampa. Un giornalista ha domandato: sono state trovate delle armi? Non ci è permesso rispondere. Sa com'è, la ragione di Stato. Qualche settimana dopo sono stato convocato e mi è stato detto che sono una bella mente investigativa, ma che ho poco senso pratico, che non devo protestare perché non è una punizione. Né un ricatto, è senso del dovere. Confesso che ho fatto del male. Confesso che ero la Diaz. Confesso che ero a Bolzaneto. Confesso che ho picchiato perché bisognava farlo. Confesso che ho picchiato perché mi è stato ordinato. Confesso che sono stato ricattato. Non ci misimo a cantare pure noi. E allora fu una gran festa, l'ultima, la più solenne. Bolzaneto, torturato numero uno, maschio, 28 anni, italiano, percosso in cella con calci e pugni allo stomaco, percosso nel passaggio in corridoio con schiaffi, numerosi schiaffetti, ingiurato dai militari con ritornello 1, 2, 3, chi lo conosce, e con canzonetti gloriose del bellissimo periodo fascista. Orrente che si schiava con gli schiavi. Bolzaneto, torturata numero 18, donna, 25 anni, italiana, ingiurata con frasi del tipo comunista di merda, puttana, secca. Alla richiesta di andare in bagno di Gabriele la serpente le viene gettata della carta pallottolata per terra, presa a calci vista di altra gente anche di sesso maschile. Il riferimento alla morte di Carlo Giuliani. Benvenuto, tornato numero 61, maschio 23 anni italiano, con 30 spogliati e mortali a quello di tutti, a stare delle gira volte su se stesso, e ad ogni capitolo, facci a tutte le parti. Da parte di alcuni agenti che la tappa non ricordo nelle parti del corpo, costretta a sfogliarsi alla vista dei piercing, questi ne vengono strappati. Minacciata che non avrebbe più resistito. Forza, vieni, dai. Avanti, dai. Dai, tu. Ma sto qua, vieni giù sta testa, dai! Vai giù, vai giù, vai giù! Guarda giù! Mezzo tonno, vieni! Sembrava il bello in confronto al lager di Bolzaneto. Oh, sì? E quando uscii fuori da quella camera di decompressione sapevo solo una cosa, che nulla sarebbe stato più come prima. Nulla sarebbe stato più come prima. me è successo quando il corpo non ha reagito più ai suoi comandi e le gambe si sono bloccate come succede nei sogni. Ho sentito il gelo paralizzante della paura infiltrarsi attraverso i pori della pelle. Mi sono sentita perduta. Correvo, ma avevo la sensazione di essere sempre allo stesso punto. Correvo, mi voltavo e i miei inseguitori erano prima alla stessa distanza, ma poi sempre me. Autori materiali delle stagioni del 500. Io so i nomi che hanno gestito le due differenze.